Capitolo terzo. L'ordinamento islamocratico. Caratteristiche essenziali. Anche la dimensione politica dell'esistenza umana ha ricevuto il suo regolamento nel codice onnicomprensivo dell'Islam. Il codice politico dell'Islam si fonda su tre principi. Essi sono: 1. Il principio della unicità di Dio; 2. La missione apostolico-profetica; 3. La vicarietà dell'uomo. In tre parole: Tawhid, Risala, Khilafa. In base al principio del Tawhid, ogni tipo di sovranità appartiene ad Allah, ivi compresa la sovranità politica. La sovranità sull'uomo inerisce alla qualità divina del Creatore, Iddio, e appartiene esclusivamente a Lui, per cui l'esercizio di potere sovrano dell'uomo sull'uomo è usurpazione del diritto di sovranità che appartiene a Dio. In base al principio della Risala, la legge divina che regola l'esistenza dell'uomo è stata emanata per mezzo della missione profetica. L'ultima missione profetica è quella del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, per mezzo del quale fu rivelato il sublime Corano, la vivente e immutabile parola di Allah, guida per gli uomini, spiegazione della guida e criterio di distinzione del bene e del male. L'apostolo di Allah, Rasulullah, oltre a essere il trasmettitore della parola di Allah, ne è stato il realizzatore con il suo stile di vita e l'interprete. A lui, inoltre, Allah ha attribuito autorità regolamentare, sicché i suoi precetti e le sue pratiche hanno carattere vincolante. In base al principio della Khilafa, l'uomo, in virtù della facoltà concessagli da Allah, Iddio, esercita vicariamente sulla terra, entro i limiti assegnatigli, un'autorità di cui solo Allah è titolare. Quando la costituzione di uno Stato è articolata in armonia con questa dottrina, lo Stato che su essa si fonda è la realizzazione storica sul piano politico del califfato dell'uomo sotto la sovranità di Allah, Khilafa. Le finalità di tale Stato sono quelle indicate da Allah e la sua azione politica interna e internazionale si svolge entro i limiti prescritti da Allah, Iddio. Da questa definizione del termine Khilafa emerge chiaramente che l'autorità califfale risiede in quella comunità umana, intesa come un tutto organico, la quale, avendo accettato i principi del Tawhid e della Risala, si appronta a soddisfare nella forma politica dello Stato le condizioni del vicariato divino, cioè della Khilafa. Tale comunità assume nella sua totalità la responsabilità del califfato e ciascun membro di essa partecipa al califfato divino, sicché a questo punto si può parlare di responsabilità popolare nel governo dello Stato e di Stato islamocratico. Gli organi dello Stato derivano la loro autorità dalla delega che essi hanno ricevuto dai consociati di esercitare nell'interesse della comunità i diritti e i poteri inerenti al califfato di cui ogni consocio è titolare in quanto soggetto e membro della comunità islamica. La formazione del governo emerge dai risultati della consultazione popolare, per cui chi avrà meritato la fiducia del popolo sarà investito dei poteri inerenti alla dignità califfale al servizio del popolo, esercitandoli nei limiti delle norme costituzionali fissate dal sublime Corano e dalla nobile Sunna. Nell'ordinamento islamocratico, la volontà popolare, che risulta dalla consultazione richiesta dal Corano, è islamicamente valida solo se ossequiente alla legge divina e l'esercizio dell'autorità statale è legittima islamicamente solo se l'esecutivo governa in conformità ai comandi di Allah, Iddio, e dentro i limiti da lui prescritti.